Effetto Mondo. Buongiorno Giulia. Buongiorno. Ben ritrovata, cara Giulia. Allora, oggi da dove vuoi cominciare il tuo viaggio nel mondo? Credo dalla Gran Bretagna, forse. Sì, inizierei dal Regno Unito, che forse, come sappiamo, sta vivendo questa doppia emergenza sanitaria, economica naturalmente, quindi tripla in realtà, sanitaria, economica e politica. Il Daily Telegraph titola «Ma chi ci avvertirà quando finisce il lockdown?». I dubbi che serpeggiano un po' fin dai titoli di tutti i quotidiani è che c'è questo vuoto di potere, perché è vero, lo abbiamo detto ieri ufficialmente, le veci di Boris Johnson, sul quale non ci sono di fatto aggiornamenti, sulle condizioni di salute del quale non ci sono aggiornamenti. Boris Johnson ha chiesto al suo ministro degli esteri di fargli da deputy, però non sfugge a nessuno, insomma, le differenze tra i due, anche questa repentinità del cambio che ha di fatto trovato questo signore, questo ministro degli esteri Dominic Raab, palesemente impreparato. L'emergenza economica è sottolineata anche da Financial Times, che riprende i dati resi noti ieri dall'ILO, che è l'Ufficio delle Nazioni Unite per il Lavoro. E ormai la stima sui posti di lavoro persi già a oggi praticamente nel mondo è molto vicina ai 200 milioni. Questo naturalmente è un grave danno per tutte le economie, forse quella più danneggiata in assoluto è quella americana. Secondo sempre i dati di Financial Times, il 73% degli americani avrà un'immediata, praticamente ha già un'immediata riduzione di introiti, di stipendi o salari, a seconda comunque che siano settimanali o mensili, però questo è già un dato di fatto. So che volevi farci sentire però anche una voce, vero Giulia? Sì, perché sapete che il principe Carlo era risultato positivo al coronavirus, ma è completamente guarito, resta in isolamento precauzionale. Sentiamo parte del suo messaggio e scusate ancora. Vai, la differenza tranquilla. Enorme tra... È andata via la linea? Elisabeth, sì. Nel suo discorso di domenica, e invece la sua prolissità. Sentiamo il principe Carlo, poi vediamo se c'è un problema con la linea con Giulia. Vai. As we're all learning, this is a strange, frustrating and often distressing experience when the presence of family and friends is no longer possible and the normal structures of life are suddenly removed. Giulia, eccoti, c'era stato un disturbo con la linea, sì, adesso ti sento. Sì. Ci diceva, insomma, ha fatto una confessione dicendo: in questo vi sono molto vicino. Questo naturalmente la madre, la regina Elisabetta, non poteva dirlo, perché ho provato anch'io che cosa significa essere isolati, non potersi confrontare con i propri cari, non poterli neanche vedere, e quindi insomma comunque di grande empatia. Ha sicuramente un effetto positivo questo è un messaggio che è andato in onda sulla BBC, quindi tra l'altro la BBC, che sottolineano, sì, molti siti, non la BBC stessa, per una sorta di pudore, di understatement, sta avendo degli ascolti record e sta prendendo delle iniziative veramente da servizio pubblico, cioè tutta la programmazione per esempio destinata ai bambini, ai ragazzi, tantissimi anche contenuti di altissimo valore che normalmente magari non erano disponibili o andavano a pagamento, adesso sono tutti disponibili sulla BBC, che li ha comprati anche da altre piattaforme, e questo è, sottolineano appunto alcuni commenti, un po' la rivincita della BBC. Forse ricorderete, perché ne avevamo parlato, il premier Johnson aveva annunciato un piano lacrime e sangue per la BBC, con grande taglio di personale. In questo momento è addirittura c'è una sanzione penale nel Regno Unito se non si paga l'equivalente del nostro canone per la BBC, quindi in forza appunto di questo canone. In realtà tutti questi licenziamenti sono stati sospesi al momento, quindi vedremo se almeno per la BBC ci sarà un risvolto positivo, un silver lining, come dicono gli inglesi, di questa emergenza Covid. Giulia, dove ci vuoi portare adesso? Forse negli Stati Uniti? Ma sicuramente negli Stati Uniti ci sono, qui c'è, anche qui in fondo c'è un risvolto politico, perché oltre all'emergenza economica sanitaria, ieri, ed è la foto di apertura del Wall Street Journal, ci sono state le primarie democratiche in Wisconsin, uno di quegli stati del Midwest. Ci sono le foto delle persone in coda con mascherine, foulard e altri modi distanziate naturalmente. Scene che per noi sembrano incredibili, Giulia? Sì, sono interessanti le interviste, perché queste primarie in realtà il sindaco di Milwaukee aveva chiesto di rinviarle, e anche il governatore dello stato del Wisconsin, ma in realtà non è stato possibile per un problema proprio di costituzione, e quindi si sono svolte con tutte le precauzioni del caso. Ma sono interessanti le interviste perché fanno capire ancora una volta che le primarie democratiche, ma anche in vista alle elezioni di novembre, quest'anno sono veramente importanti, cioè le persone ci tengono molto a questa tornata, almeno da quanto appare dalle interviste, e ripeto, anche su quotidiani come il Wall Street Journal, che non sono sicuramente fiancheggiatori del Partito Democratico, ci tengono insomma a esprimere la loro voce. È interessante questa partecipazione di persone che sfidano tutto sommato il virus per poter votare. L'altra notizia di ieri è che l'ufficio stampa della Casa Bianca, che peraltro non si è mai vista in 9 mesi di lavoro, che si chiama Stephanie Grisham, ex assistente e portavoce di Melania, è stata licenziata da Trump, tornerà a fare la portavoce di Melania. Si allunga la lista di quelli licenziati da Trump, che sono... Esatto. Si potrebbe scrivere un'enciclopedia. Invece... e ha invece dato le dimissioni, un altro birillo comunque, sì, che cade, il Navy Secretary, che sarebbe un po' l'equivalente del ministro della Marina, perché è quel signore che aveva detto in una comunicazione fatta con l'interfono di questa grande nave che il comandante era uno stupido, perché aveva dato l'allarme sul possibile contagio all'interno, a bordo della nave, del Covid. C'era stata tra l'altro una sollevazione dell'equipaggio e una standing ovation quando lui ha lasciato la nave, tra l'altro positivo, sì, al coronavirus, sì. E ora insomma, per questa gaffe imperdonabile, il segretario della Marina ha dato le dimissioni. Tra l'altro è interessante perché ieri molti pensavano che non le avrebbe date perché era un uomo di Trump, e invece insomma ha prevalso il senso dello Stato, un po' di senso anche di responsabilità. Giulia, non abbiamo più tantissimo tempo, però l'America Latina, visto che ci hai selezionato notizie anche dal Brasile e dall'Argentina. Sì, in Brasile parte, e forse appunto dal Brasile forse qualcosa possiamo imparare, e la misura era stata annunciata pochi giorni fa e già da domani sarà possibile, è la prima pagina di tutti i giornali, ritirare questi 600 real, non sono una grande cifra, un reale è circa 20 centesimi di euro, ma in Brasile naturalmente il potere d'acquisto è diverso, e quindi insomma sarà già disponibile a tutti quelli che ne hanno diritto, perché anche in Brasile ci sono tantissime persone che dall'oggi al domani sono rimaste senza lavoro. Beh, insomma, una misura interessante, 600 euro non sono molti, però un intervento diretto in un paese complicato dal punto di vista delle politiche assistenziali come il Brasile è comunque una buona notizia. Giulia, ti saluto, ti ringrazio, ci risentiamo domani. A domani. Ciao. È tutto per la puntata di oggi, Effetto Giorno, con Andrea Roccabella in regia, Luca Cremonese in assistenza, Jacopo De Franchi in redazione. Da Alessio Maurizi l'augurio di una buona giornata, ci risentiamo per i titoli delle 14, tra poco.